sto via. E beh. Giulio. Sei un poeta che ti cai raggi. Giulio. Oh yeah. Cosa? Propagazione, quello già c'è sempre, non manca mai. Sì, ma già sarà lo squelce. Sarà lo squelce, metti la serratura di sicurezza, non far entrare niente da fuori. Ah, ma infatti. Ma infatti. Vabbè, in questi giorni la gente se ne va male. Adesso mi poco fa ho controllato la temperatura. In macchina 39 gradi, cazzo. Caldo c'è. Caldo. Che ci vuoi fare? Infatti, stamattina presto me l'ho lavata la macchina, era un sacco di tempo ferma, ma sporca di così non era possibile. Da presto, stamattina, al fresco, nonostante tutto, ho sudato ugualmente. Poi non hai garage tu così. No, infatti no. E tu aprirai. Ah, qua avevamo rifiutato. Quando abbiamo preso le case, tutti quanti abbiamo rifiutato e allora poi hanno aperto il bar, capito? Subito, immediatamente, chi non ha voluto nessuno, e allora ce l'ha preso uno che ha aperto il bar e infatti c'è ancora tutto giù il bar. Così almeno lavora quello. Vabbè, c'è una comunità, ma tante volte, tanta gente che ce l'hanno lo usa nemmeno. Qualche mandrona per fare manovre per entrare in garage. Ma vabbè, Giulio, io ero piccolo, capito? Però secondo me per quello che si paga d'affitto era meglio prenderlo, capito? Invece hanno rifiutato tutti nel palazzo. Magari non avevano la macchina, non gli interessava per quel motivo lì. Io lo so, in quelle case così si paga poco, non è che si paga molto. A livello di 40 euro, 40-50 euro al mese. 50 euro? 50 euro? 50 euro ne pago 3 mesi. È ancora meglio, a livello di 15 euro al mese, si può immaginare. Lei un mese meno che gli peso 100 milioni, no, che gli peso. Vabbè, comunque così è. Ah, guarda. Io sono del parere, la casa se la devi comprare, la compro in contanti. E boom, vai, no. Non c'è mutuo che tenga, capito? Non c'è mutuo che tenga, da buona maratoia. Tanti soffignenti oggi che veniranno invitati alla banca, magari perché ne mancavano 6 mesi di mutuo, 20 anni pagando, ma vai. Quello è l'errore che fa la gente, no, io mutuo non lo voglio vegliato mai. Io facevo, incassando e andando avanti, per cui no, non la difeso io. Gli la fa il mutuo assolutamente, ci mancherebbe né qua e né là, né da nessuna parte. Dove ho sempre comprato con i soldi contanti, per cui man mano che incassavo andavo avanti, per cui ho fatto sempre così, ma in tutte le cose. Tu pensa che nemmeno quando lavoravo da artigiano io non ho mai preso un contributo regionale dalla regione come tanta gente ha fatto, che ci hanno preso capannone, tutto che d'altro, e ci sono tutti indebitati. Infatti tutti quelli che sono a presa niente sono tutti pieni di debiti, questi artigiani che si sono a presa niente. E papuzza, non so quanto buchi un capannone. Lo so. Ma Giulio, un discorso è che prendi un sacco di soldi o che sei artigiano e guadagni bene. Un conto è che sei operaio da mille euro al mese, 1500 euro al mese e te ne devi buccare 600 solo d'affitto, ma solo di mutuo. La famiglia deve anche andare avanti, non deve pagare solo il mutuo. Per poi appunto venirli sequestrata perché dalla banca, perché non sono riuscita a pagare gli ultimi 6 mesi o l'ultimo anno. Ma mica una cosa del genere ci sarebbe da già ammazzati. Da ammazzati ci sarebbe veramente che pago un mutuo per tanti anni e poi me ne la prendi perché mi mancano, cioè mamma mia, ma non ci voglio neanche pensare. Lo so, tanta gente infatti ha fatto quella fine lì, quello è vero, Sì, ma comunque tanta gente nonostante la paga da operaio è riuscita a farsela lo stesso, un po' perché ci ha impiegato anni naturalmente nel tempo, in base alle proprie possibilità, un po' perché ci ha lavorato personalmente, eccetera, eccetera, e dunque anche risparmiato, un po' perché magari avrebbe un pezzetto di campagna e ce l'ha fatta così, incominciando anche con la senza progetto, eccetera, eccetera, abusivamente, e tutte queste cose. Erano quindi gli anni d'oro, oggi come oggi una cosa del genere non si può fare, è stato un mutuo oggi 87, 800 euro, poi ti puoi immaginare sempre quelli soprattutto a tasso variabile, lo pagato che aumenta, poi oggi per un lavoratore che vive dallo stipendio non c'è rimedio, non c'è niente da fare, o ti indebiti con la banca sempre che tu abbia le garanzie per poterlo fare, perché se no anche la banca non te ne dà di mutuo se non hai le basi per poterci stare tre dentro. Le basi, a quelle basi vuoni, e vuoni due stipendi, e vuoni la garanzia, e vogliono un terzo garante, la zozzara, la nonna, ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando, Giulio, vai, cioè uno non può mettere debiti anche agli altri, nei casini agli altri, perché magari c'è un padre che da garante te lo fa col cuore più che volentieri, però devi pensare anche che non è un anno di garante, ma sono 20 anni, e cosa ne sai, oggi come oggi vai a rovinare un genitore o un parente, perché cosa? Perché ti sei comprato la casa e poi non sei riuscito a pagarla, ma non ci devi neanche pensare secondo me a fare un passo del genere, se non puoi ti continui a stare in affitto, non riesci a pagare l'affitto dai ubi di Nandi e buh, ma se non riesci a pagare il mutuo tieni la biglia, guarda che dopo tutti i lavori che magari ci hai fatto, perché ripeto non è mai tua, perché tutti i lavori che ci sono da fare li devi pagare di tasca, tutte le tasse e li devi pagare tu, cioè una casa quando è tua? Mai! Sempre ti comporta spese, indubbiamente è così, adesso sì, ma è così, ma io mi ricordo, mio padre ce l'aveva la casa in la casa in Apri, no in Apri, in a casa, ma io sto parlando del 1953 e non oggi, quando allora era veramente difficile, poi noi eravamo anche una famiglia numerosa, se vuoi immaginare, 7 figli ha avuto mio padre e mia madre, sicché lui era un operaio anche se guadagnava discretamente, però aveva la casa popolare e siamo tutti praticamente cresciuti lì, però oggi come oggi tutte e 7 fratelli, tutti indistintamente, sia donne che maschi, tutti quanti abbiamo la casa di nostra proprietà, perché babbo ha sempre detto questo, la casa la dovete costruire, perché se aspettate a costruirvela io non è possibile, io non ve lo posso dare più di tanto, io al massimo posso crescere, eccetera, eccetera. Come vedete, tante volte cosa succedeva? Che anche l'ente popolare le mandava la lettera se voleva riscattarla la casa che mio padre aveva incontrato, mai più, mai e poi mai, perché quando ci sono da fare delle riparazioni tipo tetto, facciate, balle varie, devo pagare io, invece in quel caso lì paga l'ente popolare, e così aveva ragione babbo. Tanta gente invece che se l'ha riscattata, quando ci sono stati dei lavori da fare hanno dovuto anche smorzare, capito Luca? Esatto, qua infatti arrivano le lettere del riscatto, no? Ma non ne piglia nessuno, ma neanche se costa 20.000 euro, 10.000, non ne piglia nessuno, Giulio. Tu guarda, non so se sei mai passato qua dove ci sono le poste, no? Guarda il palazzo delle poste, ok? Il palazzo dove ci sono le poste, tutta quella zona lì, sono gli unici che hanno comprato, ok? Tu guarda in che condizioni è il palazzo delle poste, che sono venuti già due due o tre volte i vigili del fuoco, ok, a transennare, a buttare giù, questo che cosa fa? Perché siete proprietari alla fine, però non hanno i soldi per poterle ristrutturare, cioè neanche la palazzina. Adesso avevano già da maggio dell'anno scorso, dovevano montare il ponteggio dell'anno scorso, il ponteggio, perché hanno approfittato del 110 e ancora resistenti, gli hanno fatto togliere tutte le verande perché erano tutte abusive, no? Gli hanno fatto togliere le verande, pensa tu, e ancora già esistenti, che l'impresa li faccia i lavori. Cioè, ma è inutile che uno compri un appartamento come hanno fatto lì e poi è in degrado, quella palazzina è l'unica in degrado. Sì, ma lo so che è così, appunto per quello, babbo ha sempre detto, io, ma ti sembra che io sono così scemo che vado a riscattarmi la casa quando pago, per dire, la miseria di affitto? Mi sembra che pagasse 40 euro, una cosa del genere, 45 euro al mese, ti puoi immaginare? Così è stato, non l'ha mai pagato, no, cioè non l'ha mai riscattata. Per cui quando sono stato da fare da voi, sia di facciata che di dentro, ci ha sempre pensato lì in casa, ci ha pensato, insieme a quelli che così in maniera stupida hanno riscattato l'appartamento dove abita. Capito? È successo così. E nonostante tutto, però a noi ci ha consigliato la casa, ve la dovete costruire. Lavorate, fate sacrificio e la casa ve la costruite. E noi ci siamo sposati tutti quanti con la casa già di nostra proprietà, è pagata, proprio completamente pagata. Tutti i miei fratelli è uguale, mie sorelle è uguale, per cui non c'è stata mai nessun discorso. Tutti quanti senza prendere mutuo, tutti, indistintamente nessuno di noi ha preso il mutuo. Abbiamo fatto in contanti, man mano che c'erano i soldi si andava avanti con la casa. Ma le spese erano tante sicuramente, Giulio. Però io ripeto, parlando da operaio, da 1500 euro al mese, ok, come fai oggi a fare in contanti, oggi come oggi, che ti devi comprare il terreno, ok, e nel frattempo pagarti l'affitto di dove sei, raccimoli quello che raccimoli, 100 blocchetti oggi, 100, e andrà a venire a casa. Non ce la fai, oggi come oggi non ce la fai. Prima sì, magari quando c'era la lira sì, ma oggi con l'euro non ci riesci più. Con la crisi le tasse e gli aumenti, oggi come oggi, voi. Ehi, Rubino, ma le spese ce ne sono state, tu pensa che sono per avere l'allaccio alla rete fognaria, cioè come ai servizi urbani, diciamo, per così dire. Hai pagato, io sono di Bucalossa, abbiamo pagato un momento come se fosse oggi 7 milioni, se vuoi immaginare, di lire, stiamo parlando di lire, allora. Dice, solo per avere attaccato un tubo che poi era confinante proprio col mio muro, non ho aperto un centimetro di strada, un centimetro di strada non l'ho aperto, siccome c'era lì chiusino, l'ha già stato lo zappo, ho infilato il tubo, o meglio che mi ha fatto il lavoro, ho infilato il tubo per scaricare il coso fognario, non ho capito. Per dirti, non ho aperto un centimetro di strada, 7 milioni hai pagato per avere servizi così urbani o Luca. Tanto mai da fini una. Spese ce ne sono state tante, però grazie a Dio le ho fatte tutte in contante. Non ho mai preso un centimetro, un centesimo da nessuno, né dalla banca, né dalla regione, né da nessuno, insomma. Man mano, voglio dire una pazzia. Sì. Grazie a Dio avevi un buon lavoro che ti permetteva di guadagnare bene, diciamo così. Così che, ma oggi una famiglia già non te ne danno di mutuo, no? Se non sei in due, se non c'hai garanti, anche i prezzi ti è oggi, ma ti dice, ma ha un garante, una suocera, un parente, ma chi è che avrebbe il coraggio di mettere un parente o un familiare a garante di un prestito, per dire, di 10 anni, ma oggi come oggi, ma stiamo scherzando, finché si tratta di 2 anni, 1 anno, 2 anni, io dico ok, perché oggi il lavoro ce l'hai e domani non lo sai, ecco cosa dico. Sicché non sono per niente d'accordo di la gente che va a cercare garanti come suocere, come familiari, fratelli, eccetera. Soprattutto quando tu hai una famiglia numerosa come eravamo noi, 7 bambini, tra maschio e femmina, ammettiamo il caso che un genitore voglia fare da garante a un figlio e vuoi che vada a fare da garante a tutti e 7 figli. No? Considera questo particolare, per cui o a tutti o a nessuno, ma a tutti non si può fare, allora a questo punto a nessuno, non ti sembra? Vabbè, certo, no vabbè, qua noi ci abbiamo andato nel lontano 74, le case, così che... infatti poi io avevo fatto la residenza quando sono tornato da fuori, stavo da mia suocera, avevo fatto la residenza subito per evitare di perderla, perché poi è rimasta solo mia madre, e mia madre poi nel 2011 anche lì si era ammalata, finché ho detto se non faccio la residenza ai noghi mi ne la casa, capito? Mi avevo fatto la residenza e così che poi sì, ho pagato il trasferimento, perché anche se non mi sembra giusto, è morta mia madre e ho dovuto pagare il contratto, il nuovo contratto, anche se io qua ero residente, capito? 300 e passa euro di nuovo contratto, capito? Però sì, e beh certo, per fare la voltura, no? Per fare la voltura di proprietà, diciamo, o meglio di coso, di inquilino. E beh certo che sì. Quelle volte cosa sono? Comunali sono o in a casa le case? HCCP. Come sono? HCP, così hai detto? Bella ente popolare, insomma. Ente popolare, sì, ho capito. Vabbè, d'altronde è così. Ma io mi ricordo, ad esempio, prendo il grattacielo, che è così chiamati, che ci sono lì a Latte Dolce. Tu lo sai che il primissimo inquilino che c'è stato in uno di quei grattacieli era Costantino Tenaglia. Tu hai mai sentito Tenaglia col nome di Baracchino? No. Boh. Ma l'altro giorno c'è un giornale che non so, la metà è vuota di un grattacielo, boh, perché manca l'ascensore e così che ce ne sono andati parecchi, e perché giustamente come fai a salirci a 15° piano, quanti piani sono, che mancano il motore, non so se l'avevano fregato dell'ascensore, e così che molti non stanno pagando più affitto, né acqua né nulla, e è un casino, già è un casino in una palazzina tipo questa, no? 10 inquilini, deve sempre Ghidu, o erano per il capo di Malgondominio, per quello e per l'altro, no? Figuriamoci in un grattacielo così. Beh, non lo so come funziona, per carità. Praticamente Costantino De Lugo era il fratello del costruttore De Lugo, quello che era stato e ha costruito tantissime case, che ormai è morto, ma è morto anche Costantino comunque. E lui aveva il baracchino, sicché ci siamo conosciuti bene, non solo con me, ma tanta gente del baracchino ha conosciuto a Costantino. E lui, siccome abitava in una casa alle parti alte di Sassari, e questo appartamento era sempre di questo De Lugo, era sempre di questa impresa De Lugo, e lui era lì e pagava l'affitto. A un certo punto l'appartamento dove abitava lui, questo costruttore, se l'aveva venduto, e dunque ha fatto di tutto e gli ha fatto dare l'appartamento al piano terra del grattacielo, ed era l'unico unico inquilino che non c'era ancora nessuno, perché le case non erano ancora state assegnate. Lui invece era riuscito tramite questi impegni e questi cose ad avere l'appartamento. Appena è entrato, lui ha cominciato a fare modifiche, a battere la mesia, ma le varie se la faccia come voleva lui. Lui, premesso che era come muratore, mi sembra che fosse, aspetta, cosa era, bianchino, credo. Sì, credo che era bianchino, però poi ha fatto anche il piccolo empresario, fatto. Capito? Sì. Ma io dico, ma come si fa a costruire due grattacieli così, no? Cioè, nelle case popolari, diciamo così, o comunali, o quello che sono. E sai benissimo a cosa stai andando incontro. E infatti è sempre caduto, sì. Adesso non so come funziona in quelle case, ma nei primi anni era una guerra continua lì, tutti già parlavano, tutto, per carità. Infatti avevo detto, qui quando hanno costruito questo palazzo, il progettista doveva fare nei sotterranei, dobbiamo fare la prigione, in modo che gli si quando già parlavano, li prendeva e li metteva direttamente in galera, sotto terra, sempre sotto quel palazzo lì. Perché nei primi anni, quante baruffe ci sono state fra inquilini, per carità, e addirittura gente che accusava altri che si avevano nella vasca da bagno, si avevano piantato il prezzemolo, dicono, per carità, e vabbè, comunque tutta gente arrivata da Corea, da Montelepre, allora chiamate quelle zone così, no, e le avevano messe tutti lì, le avevano messe. Devi arrivare sotto, devi arrivare nel sotterraneo, devi arrivare la galera, così almeno quando si arrivavano si denunciava direttamente se li buoni in galera, se stai in chi va per il tempo. Esatto, sì. Pensa che ho un amico che abita lì via Donizetti, no? Qui vicino a Bressella, quei palazzi lì. Adesso hai costruito quelle case lì, cosa hanno fatto? L'acqua, invece di mettere ognuno il suo contatore, hanno messo un contatore unico. Così che cosa faceva la Panova? Mandava, faceva il dividendo, no? Ma come fai a fare una cosa del genere? Da dividere per tutto, palazzi, l'acqua. Quello non ne pagava, l'altro non ne pagava. E ci hanno rimesso anche gente che pagava, no? E alla fine hanno preso e hanno attaccato, hanno tagliato il tubo e loro cosa hanno fatto? Io lo so perché ci abita un amico mio idraulico lì, no? Cosa hanno fatto? Hanno preso, ha fatto il tronchetto questo amico mio e l'hanno collegato al pezzo che loro hanno tagliato, dove hanno tolto il contattore, no? E si sono allacciati nuovamente. Quando poi Abanoa ha saputo che loro avevano l'acqua, quando Abanoa è andata lì per verificare, li hanno circondati, gli hanno detto togliete il tubo adesso e poi vediamo. Perché in effetti non è giusto che io pago quello che tu mi mandi, la differenza, ma 50 o 100 non pagano, perché ci devo piangere anch'io? Metti i contattori a ognuno e boh, basta. E questo non è stato mai fatto. Ma per carità, ma lo so, lì, ma c'era da immaginarselo che non, no, con tutta la gente, la classe di persone che abitano in quel posto lì, senza voler criticare a nessuno, ma lì c'è tanta di quella ciurma che non finisce mai, in quelle zone del grattacielo, lo sappiamo da sempre. E oggi ci lamentano magari che non funziona l'ascensore, ma forse non funziona l'ascensore, se non hai mai molto cinquecentesimi nel condominio per poter fare le riparazioni. E cosa pretendi? Che tu sfasci e che l'ente popolare poi ti faccia le riparazioni, ma non attendendo. Sì, ma è così, ma poi non è solamente in via Donizetti, ma in tutti i posti dove ci sono certo tipo di persone o Luca, ci sono quelli che non vogliono pagare niente, ma così devi buoni una lampadina nel condominio delle scale, non la vogliono pagare, ma fanno schifo quelle gente che deve vivere isolata, da sola, come i demiti, voi, aria e via, voi non siete in non si è persone da vivere in un contesto cittadino dove c'è gente seria e gente democratica, fa carità. Per quello che ti sto dicendo, figuriamoci in un grattacielo, ok, o due addirittura che ne hanno costruito, poi questa cosa di costruire questi due grattacieli, non so a chi possa essere saltato in mente che già cinque piani di un palazzo già sa Ferrari, no? Figuriamoci in un grattacielo, adesso non so, io sinceramente non ci sono mai entrato in quei grattacieli lì, non so quanti sono a piano, se sono 4, 5 famiglie. Immaginiamoci cosa dice che avevano rubato appunto il motore dell'ascensore per farselo i soldi in rame, no? O non so che cosa. Ma ti rendi conto? E così che tu li vedi la sera, ognuno ha deve essere la sua lampadina fuori dalla porta, perché l'illuminazione si vede quella che è dei grattacieli, cioè una cosa, ma questa idea di costruire questi due grattacieli, a chi è salita in mente, non lo so. A chi è venuta in mente? Tu vai risolvi questo rebus, perché è un rebus, magari l'ete popolare che alla volta avevano deciso di fare questi due palazzi così alti, ed assemblare tutte quelle persone. Caccia, cioè, tu vuoi che le persone, diciamo così, che vivono in maniera indecorosa, che si adeguino al decoro, la deve distribuire un po' dappertutto, così. Ma non li puoi mettere tutti insieme, gli indecorosi, tu non li puoi mettere tutti insieme, ma che lì c'è gentaglia, ma che penso che è gentaglia, tutta la gente di Montelepre che c'era allora lì e di Corea, li hanno messi tutti insieme, sicché ti puoi immaginare che razza di condominio poteva nascere in quella zona lì. Oggi non lo so se hanno imparato un po' di educazione, un po' di civiltà, ma io ho la sensazione, anch'io stavo leggendo l'altro giorno, che non funziona l'ascensore, sicché c'è gente che magari anche il valido non ce la fa salire le scale, eccetera, eccetera. E allora qui, se ti ritrovi in un ambiente di quello stampo lì, cosa vuoi pretendere? Lascia la strada, la casa, se cammina e mai si venga i delinquenti che ci sono lì. Senza considerare poi appunto quanti saranno venduta, i giganti saranno venduta. Sì, e beh, quello venduto per modo da dire, quelli che si passano male, mi trasferisco, se vuoi occuparla tu, così avrai anche la casa, come hanno fatto in tanti posti, non solamente lì, in tanti posti hanno fatto in questa maniera, l'inquilino che se ne sta per andare, conosce un altro, si fa dare una cauzione, 3, 4, 5 mila euro, 10 mila euro, 2, 3 milioni, a seconda della circostanza, no? E fa praticamente su una galleria il vecchio inquilino e mettendone un altro e così via, sicché l'appartamento non è mai libero. A un certo punto si ritrova un nuovo inquilino, si ritrova, poi va all'ente popolare, siccome non lo buttano fuori, famiglia numerosa, con figli e male varie, e le fanno la voltura del contratto. Ecco come ti funziona, già lo so, tanta gente si è venduto la casa così, venduta tra virgolette, cioè, si è fatto pagare per lasciare libero l'appartamento per subentrarne un altro, magari ancora di più valoroso. Ecco qual è il discorso. Beh, certo, sì, perché dici tu comunque, sì, adesso mi dai 3 milioni o 3 mila euro, ma questi soldi qua li recuperi in fretta perché paghi una cazzata d'affitto. E quello è, anche se uno lavora da 1500 euro al mese, no? 1400, 1500, chi è, cosa va a pagare d'affitto? 90 euro, capito? Il buono è quello, sicché a te ti conviene sempre. Ma cosa fanno? Sì, se ti danno i soldi e ti fai si fanno una residenza lì, in quell'appartamento, capito cosa fanno? Poi intanto se ne andano, vieni i vigili, controllano, ok, c'è il signor Tadek, ok, a posto, no? E ti lasciano lì. Poi allora a volte vengono i vicini da voi, chi si chiede, sono dentro la casa, si non andano, capito? Se ne vanno, aspetti quei 2-3 anni e ti fai, vai all'ente popolare e ti fanno il contratto. Tu sei già residente lì e ti fanno il contratto, tranquillo, tranquillo. Sì, infatti è così, una volta che tu abiti lì, sei domiciliato in qui, lì, dopo non so quanti mesi debbano passare, però forse sono solamente 6 mesi addirittura, da quel preciso istante hai diritto per dire a rimanere lì per sempre. Vai e via all'ente e ti fanno la bottura del contratto. Già lo so, sì che è così. Tanta gente ha fatto di voi, però ripeto, tutto sommato alla fin fine sei sempre in mezzo ai guai, perché non sai mai chi hai vicino a te nello stesso ambiente, diciamo, nel stesso ambiente, nello stesso palazzo. Ecco, e poi siccome quelle persone che sono andate a abitare lì, proprio parlando sempre di quei grattacieli, erano notissimi a Sassari, o quasi tutti o tutti, tra Montelepre e Corea, si può immaginare che è andata di ciurma, che ne era nata, e ancora oggi, dopo tantissimi anni, ma che sono passati 40 anni, sono passati già come minimo, si ritrovano in quella, sempre in quella situazione così di baruffa, eccetera. Sì, 3 anni devono passare, Giulio, non sono mesi, capito? Però quello è casino, poi perché oggi bisogna stare attenti, perché era successo appunto a Santa Maria di Pisa, che una famiglia aveva occupato con figli, aveva occupato abusivamente un appartamento vuoto, c'era in cultura, ce ne hanno buttati fuori comunque. Sì, però se tu fai come ti stavo dicendo, come hanno fatto tante persone, dammi 3 milioni, dai, ti lascio libero l'appartamento e facciamo lo scambio. Io porto via un tavolo e tu ne porti, porti un altro, così via. Allora, alla fin fine cosa succede? Che l'appartamento non risulta mai vuoto, sicché una famiglia che se ne va a quel punto è l'altra che è subentrata automaticamente. E non ti mandano via, soprattutto se uno ha famiglia, se ha bambini, eccetera, non sai come te lo sono, no. Poi naturalmente ci sono anche quei delinquenti che vanno, aprono le porte, aprono, sfondano e occupano le case, anche quelli vorrebbero penalizzarti, chi ti vuole arricchire di buoni, perché quella è tutta gentaglia, perché magari dice, ma io ho figli, magari te l'ha detto a te a fatti i figlioli se non eri in condizioni di averne figli, o se non li potevi mantenere, per quale motivo te li devo mantenere io, e cioè io intendo il popolo, solo perché tu hai fatto delle stupidaggini, hai capito come funziona la vita, ma ci sono queste persone che purtroppo hanno la prepotenza di vivere proprio di prepotenza, nello senso della parola. Allora, un conto è abusivamente che un appartamento è vuoto da mesi, è un conto. Un conto è che, come era successo addirittura a quella incontinente, che era ricoverata quella donna e l'avevano dimessa, è tornata a casa e l'appartamento era occupato e si è dovuta incatenare giù, perché lei aveva tutto il diritto, perché giustamente lei viveva lì, ma non so quanto ci è voluto per riavere il suo appartamento, perché lei era ricoverata, si era dovuta incatenare non so quanti giorni giù, perché i vigili o chi di dovere liberasse l'appartamento, perché non è tanto facile neanche poi, nonostante il contratto è intestato a te e tutto quello che vuoi, tu non puoi partire a trovare un familiare, ti occupano l'appartamento, torni e devi dormire in strada, nonostante la legge dice che l'appartamento è intestato a te e tutto quanto, ma ti rendi conto? Sì, e continui a pagare anche le bollette, pagare l'acqua, paghi la luce, paghi l'affitto, paghi tutto, e intanto la casa è occupata da un abusivo. Già non so se è, scusa, ma quello perché dipende anche dalle leggi, ma quando mai, ragazzi, le leggi non dovrebbero subito intervenire in quel caso lì e denunciare subito, immediatamente, per violazione di domicilio a quella persona animale che si è permesso di fare una cosa del genere. Cazzo, ma se io sono, per dire, uscito per una settimana da casa, magari sono io anche ricoverato in ospedale per curarmi, tu ad andare lì, poi ti disturbi con l'appartamento occupato. Ma vogliamo scherzare? Lì dovrebbe intervenire subito la giustizia, invece no, se no Putin non gliene frega niente. Ma quella lì, sai, è poveretta, è una famiglia che ha 3 figli, 4 figli. Io me lo bacio 80 anni, bacio, e ci vivo qua 50 anni, e solo perché sono andato in ospedale per curarmi, tu a un certo momento arrivi e mi sfondi la porta e fai occupazione di domicilio. Ma come c'era là? Ci sono le leggi anche che sono favorevoli ai delinquenti più delle volte. Hai detto bene, sono favorevoli ai delinquenti, perché nonostante tu hai visto che io sono abito lì con tanto di un contratto, con tanto di cose, cioè tu, ma neanche mezza giornata, da quando io scopro che c'è una famiglia che è entrata nel mio appartamento, io chiamo i vigili, neanche mezza giornata deve passare che loro devono essere in strada, ma stiamo scherzando, con tutte le mie cose dentro, poi... Appunto, ma ti dico di più, addirittura io avevo sentito, quando poi alla fine qualcuno è riuscito a riottenere il suo appartamento, parlo ad esempio di zingari che avevano occupato l'appartamento, caspita, gli hanno svuotato la casa oltretutto, pure un silberamento, con la polizia lì davanti, lo prendevano, dove stai andando? Questa vez mi sto andando via, perché se mi state buttando fuori da qua, mi sto portando via le mie cose, compresa? Ho seduto, oltre prima ti hanno inviato la casa, poi alla fine ti hanno dato l'appartamento, però te l'hanno svuotato, perché ti hanno portato via mobili, gantovela, lavatrice, il televisore, tutte queste cose qua, capito come? Sicché non gliene frega niente, la persona onesta non è protetta, sono protetti i delinquenti e basta. Dimmi Giulio, lascia perdere, ma secondo me c'è un introito, ci sono delle entrate che si buttano, anche il governo, lo Stato, con tutti questi migranti, con tutti i taglienti che sbarcano, di Lampedusa non ne può più. Ma io dico, ma che cosa sta succedendo? Ma perché tutto questo? Cioè, già abbiamo casini noi in Italia. Io dico, se il governo non riesce a sbrigare i nostri di casini tra disoccupazione e tutte le cose che stanno succedendo, si accumulano anche questa gente, che questa gente poi vuole campata, non è per essere razzista o di tutti i biasi, ma si non riesce a aiutare l'italiano, che quello si trova disoccupato e ti lamenti perché lo aiuti con reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Però poi non parli che stai campando tutte queste persone, che li dai da mangiare tutti i giorni, che li paghi un telefono, che li paghi tutte queste cose. Chi sono non contano, poi hanno, dico, l'italiano vuole lavorare qui e là, ma intanto tu lo devi aiutare, ok, lo devi comunque aiutare l'italiano, non è che all'italiano gli dici, ma tu adesso ti blocco il reddito, te lo abbasso qui e là, e intanto mi campi una persona o una famiglia che da Lampedusa e tutti gli altri posti dove li stanno mandando, ma a quelli non devi dire niente, devi campare e basta. Ma perché qua? Perché è sempre la colpa della politica, secondo me, perché non è possibile, ad esempio adesso che abbiamo un governo di destra, però c'è la sinistra che è a favore di questa gentaglia che viene da fuori, perché questa per me è gentaglia, quelli che scappano dal loro paese, che dove non c'è la guerra, perché in effetti non c'è la guerra, solo in qualsiasi, in piccolissime parti ci può essere la guerra, ma a livello di 200-300 in tutto il mondo, mentre tutto il resto, dal 97%, per dire, vengono qua e non sono scappati dalla guerra, come dicono loro, ma ti pare che si possano accettare tutte queste persone? Poi ci si mette anche l'Europa, questi bastardi che non vogliono, che tutte quelle persone che vengono qua non vogliono che gli si manda nessuno a distribuire. Io posso capire che qua siamo quelli che sono più vicini, perché si sa, l'Italia è più vicino all'Africa e all'Arabia e dappertutto il mondo, e arrivano tutti qua, il primo porto è sempre l'Italia, però poi dovrebbero essere distribuiti in tutta l'Europa, non in Italia, dove tenevo bene, ne ricaviamo da Lampedusa magari per portare, che so io, a Rimini, ma non si fa così, assolutamente, non si deve fare. fare io, se fosse stato io il governo, per forza fatto io il blocco navale a Maragana, ma che ha fatto i bonghi, no, quindi bongo, i militari ti mettono dalle porte armate in alto mare, e se ti vedo arrivando giù con una mitragliata e ti faccio affondare, ma buffonendosi, non si può accettare che tutti quanti vengano qua così prepotenti a fare tutto quello che vogliono, non è possibile, guarda. Non si può così. Chi è avanti? Buonasera. Non si può così. Non si può perché non si vuole fare, se no è si buco. A Maragana si buco. Se non fa una volta stai tranquillo, poi hanno paura, non ci vengono più. Bisognava pensarci da prima. Bisogna pensarci da prima, e questo cosa vuol dire? Che ormai dobbiamo continuare. Più continuiamo peggio sarà per noi italiani, capito? Sicché quando la fermi è sempre un bene per tutti, mai la fermi e peggio sarà. Il discorso è quello, non è questione bisognava pensarci da prima. Anche se ci pensi adesso sei sempre in tempo, perché continueranno a arrivarne per anni ancora. Sicché prima la fermiamo e meglio è, poi quelli che ci sono già prenderli e rimpatri, intanto ferma il resto. Vabbè, ok, ma non hai visto che Salvini mi avrebbe stato fermando e non hanno voluto? Come non è giusto, Vittù, ma cosa stai dicendo? Ma ti sembra che tutta questa mondezza, tutti questi delinquenti, perché la maggior parte di gente, di questa gente sono delinquenti, debbano venire qua, debbano venire, ma non c'è gallare. Questi sono abusivi del mare sono, no? con tutte quei tassisti del mare che stanno facendo loro con i soldi, sfruttando le persone, pagando 3, 4, 5 mila euro per ogni viaggio, per poi arrivare qua, magari un barcone affonda, ne muore di 50, 60, è la colpa dell'Italia perché non è salvata. E tu perché li hai imbarcati questa gente? Il discorso è questo, Vittù, cosa ti dicendo? Guarda che forse hai frainteso, io sono d'accordo con te, non scherziamo, io non ci, se fosse per me qua non ce ne sarebbero stati, già lo sai di che corrente politica sono io, non aggiungo altro. Appunto, questa gente qua non ci deve entrare, è l'Italia, se vuole il suo bocco alla mano, lo fa, perché nelle acque territoriali italiane tu non puoi oltrepassarle se voglio io, ma siccome il governo italiano è sempre una questione di politica, già lo sai, anche perché anziché cercare di difendersi compatti sia la destra che sinistra, no, la destra amministra e si oppone la sinistra, amministra la sinistra e si oppone la destra, è una vergogna, siamo una vergogna, guarda, siamo un popolo di vergogna in questo caso, anziché fare il nostro interesse andiamo ad ammazzarci l'uno contro l'altro, ma non è possibile, dai. Vai Luca. Sì, perché dovrebbero, secondo me, costruire un campo tipo campo rom davanti alla casa del Presidente del Consiglio, proprio davanti a casa sua o al suo palazzo, visto di là, un bel campo rom oppure delle case solo per loro, ok? E poi vediamo come si comporta la signorina. Hai visto che quando hanno iniziato a dire che ormai erano al collasso, questo collasso sta durando 4 anni, ma cosa cavolo stanno facendo? Ma non te ne accorgi, sembra un ping pong, vogliono presi tutti quanti e rispediti indietro, recuperati con una nave, caricati in una nave senza motore e abbandonati al largo. Hai capito adesso quello che ti ho detto? È così infatti che bisognerebbe fare, allora, è così, invece no, caspita, quando l'aveva fatto il blocco navale Salvini l'hanno subito denunciato, ancora oggi, in mezzo ai problemi giudiziari, proprio perché stava difendendo l'Italia, caspita, non lo so, è un ministro degli esteri che difende l'Italia, la sua patria, non deve essere giudicato dai tribunali solo perché ha fatto il proprio dovere, ma vogliamo scherzare, poi ti arrivano questi delinquenti da fuori e si mettono contro, tipo quella Rachele, o l'accidente di Giamma, quella comandante di quella famosa nave che aveva cercato addirittura di schiacciare l'imbarcazione dei poliziotti, nel porto e non ha nevato niente, non ha nevato. Solo perché Salvini ha fatto un blocco navale di 6 giorni, invece è entrata poi la sinistra, la Morgese, e hanno fatto il blocco navale di 12-15 giorni, a quella non l'hanno mai denunciata. Perché la magistratura non è intervenuta anche contro la Morgese? Contro Salvini 6 giorni sì, e mentre gli dà aspettato roba di 15-12 giorni, il blocco navale non l'hanno nemmeno, anzi forse gli hanno fatto anche gli applausi, ma noi vogliamo scherzare. Vai Luca. Vai. Tu direi, ecco, che non si capisce niente quello che ha parlato. Vai Luca. Luca, è bene. Ho detto pace bene a tutti, se non si è capito. E infatti non si è capito brutto niente, perché l'eco era talmente profondo e lungo che non si capiva niente. Ciao Gianni. C'è Vittorio anche, Vittorio e Luca ci dovrebbe essere, se non si è allontanato. Dipende già. Ciao Urbino, ciao anche a te. E vabbè, no, l'ho ben sentito Giulio, mi stava sfuggendo il nome, chissà perché. E allora Volpe, come andiamo? Come andiamo? Siamo vicini, ormai siamo imperniati di questi problemi, che ogni tanto la radio serve anche a questo, a sfogarsi. Serve a sfogarsi, ma non serve a niente, perché è uno sfogo così, leggero. Purtroppo ci comandano e fanno quello che vogliono, e tu non sei d'accordo, perché so che hai attenzioni politiche verso quell'altra sponda. A te ancora già. Ah, io rispetto le idee di tutti, dai, non c'è problema, mi stavo ascoltando. E purtroppo è così, bisogna bloccarli da quando stanno partendo. Io non sono d'accordo che ci sia tutta questa fiumana di gente che viene da fuori, non sono d'accordo per niente, Vittù, a parte le idee politiche che possono essere altre, però non sono d'accordo manco io, perché cavolo, ci stanno invadendo, addirittura Sassari Vecchio sono dovuti scappare tutti perché stanno invadendo tutta la zona. Praticamente spacciavano, c'era di tutto e di più. E non lo vediamo da Striscia che gran parte di questi che spacciano sono tutti loro. Sì, ma il problema che hai accennato poco fa lo stava risolvendo Salvini, aveva bloccato quella nave. Stop. Se da quel giorno non avessero più fatto niente per non venire, non ci sarebbero venuti, vale a dire che quelli sarebbero ritornati al loro posto, l'avrebbe quella nave, la tipa lì, che era la comandante, col capitano della comandante tedesca, l'avrebbero arrestata e messi le chiavi in prigione e buttato le chiavi in mare, la nave presa, rimorchiata e riportata da dove stavano partendo, e non ci sarebbero più venuti perché avrebbero avuto paura. È la prima volta che serve a farlo. Se tu non l'accetti, anzi li perdoni e li riaccetti, e quindi continuano. Ecco che ci troviamo incasinati per questo motivo. Tutto qua. A te giù. Ok, Vittù. Poi per non parlare poi di quello che aveva detto il famoso magistrato Palamara, ma dimmi tu se si possono fare certe dichiarazioni, nonostante tutto lo stanno ammassando di processi a Salvini. Io non è che sono a favore di Salvini, a me di Salvini non me ne putti niente, però è una questione anche di realtà della vita. Quel famoso Palamara, quel magistrato, anche se magistrato, aveva detto chiaro e tondo in televisione tantissime volte, dice, che fra di loro parlavano, fra magistrato e magistrato, dice Salvini ha ragione, però bisogna abbatterlo. Ma che razza di discorsi si fanno? Ma vogliamo scherzare? Ma uno come può andare contro un ministro degli esteri, ragazzi, che sta proteggendo la propria nazione, e tu lo vuoi distruggere in quella maniera, solo perché magari accendono il simpatico che tu appartieni ad un'altra sponda politica? Ma è vergognoso, veramente, nonostante tutto, quello qui rischia 15 anni di galera, solo perché per sequestro di persona, perché ha sequestrato e poi non li ha sequestrati, che poi li ha anche, tra l'altro, dato dei viveri, li ha accuditi, li ha mandati ai medici, a bordo, e tutte queste belle cose. E poi poi li ha fatti anche scendere, per dirti, no, è così, è, no, è un vergognoso, guarda, il sistema italiano è vergognoso, veramente, vai Luca. Senza contare appunto chi è che paga appunto quando vanno la capitaneria che vanno a prenderli in mezzo al mare a questi, chi è che la paga? Tutta questi marinai appunto, chi è che li paga? Andare, prenderli, sbarcarli, dargli la prima accoglienza, portarli dappertutto, cioè se sempre in oghi. Adesso l'ultimo incidente che era successo qui a Cutro, che erano molti, mi sembra 70 persone annegate eccetera, no? Perché questi erano arrivati con una barca di legno di Ghida Brasica che si è sbattuta agli scogli e si è frantumata e loro sono caduti in mare, giustamente è successo quello che è successo. Ne stanno ancora parlando a distanza di mesi. Poco tempo fa, quando è? 15-20 giorni fa c'è stato quella imbarcazione che è caduta lì nelle acque della Grecia, ci sono molti, c'è il vento, ne hanno fatto solo l'annuncio, non ne hanno più parlato. Contro l'Italia sono tutti quanti, però contro le altre nazioni europee nessuno ne parla. Ma vogliamo scherzare? Beh, noi siamo diventati la pattumiera del mondo, non dell'Europa, no, del mondo, perché questa è tutta mondezza quella che arriva da fuori. Vai Gianni. Ma io sono un pesce, non ne mangio più. tutti quelli che stanno morendo in mare si stanno nutrendo di carne umana i pesci. Non è escluso appunto che i pesci si mangiano questi cadaveri che ci sono nel mare. È una vergogna, guarda, è una vergogna. E poi noi ci mettiamo contro noi stessi, intendo gli italiani contro gli italiani, incominciando da quelli che al momento sono contro il governo. Ma se lascia amministrare, perché se no non andiamo mai avanti. Deve essere così, quando una fonte politica amministra, lasciala amministrare, vedremo un po' che cosa sa fare. Poi vuol dire le prossime votazioni, se non ci va bene lo cambiamo. Come è stato? Questi che hanno amministrato per 30 anni di seguito, capita, non hanno fatto mai niente, non hanno fatto mai riforme, e adesso questa che perché c'è in pochi mesi, questi bastardi della sinistra vogliono che si facciano tutti in 448, vuol dire le riforme del lavoro, poi c'è da parlare tanto anche contro i sindacalisti, perché chi decide i contratti nazionali sono sempre i sindacalisti. Perché i sindacalisti non si sono mai opposti, non si sono mai fatti sentire veramente contro qualsiasi governo che c'è sempre stato, per avere una paga come si deve, un salario minimo buono, in modo che sia dignitoso. Invece tutti quanti l'hanno contro Meloni, ma la colpa di Meloni è se i salari dell'Italia sono così bassi. Ma vogliamo scherzare? Vai Luca. Infatti. Però si lamentano, ripeto, per aiutare gli italiani col reddito di cittadinanza o arrivare a fine mese, però non dicono quanti miliardi stanno spendendo per sfamare queste persone, perché giustamente pasti, accoglienza e tutte queste cose qua. E tutte le per appunto aiutare queste altre persone, certo, quello non lo dicono, si lamentano solo del reddito di cittadinanza, di chi su Zobboni. È una vergogna, è una vergogna, e che poi tra l'altro sta dimostrando che ha ragione Meloni, ha ragione, perché dice uno deve cercarsi lavoro, deve lavorare per campare, tu non puoi vivere dal reddito di cittadinanza, perché un partito di deficienti come questi grillini che si hanno comprato il voto con questi poveretti, che poi tra l'altro è stata una spesa madornale che ha affossato l'Italia con questo fatto del reddito di cittadinanza, per non parlare poi del 110, lì c'è ancora meglio, tutti i giorni si sentono gente che è stata controllata e si sono verificate le truffe, ma è vergognoso veramente, senza considerare che da quando Meloni ha detto bisogna lavorare, sono aumentati i posti di lavoro, cosa che mai e poi mai in Italia siamo arrivati all'occupazione quasi del 64%, mai, cioè 24 milioni circa di lavoratori, al massimo arrivavano a 18 milioni in Italia, da sempre, in qualsiasi partito che abbia amministrato l'Italia, da sempre. E tu mi vieni a dire che non stai facendo niente, vediate cosa hanno fatto al riguardo, non hanno fatto nulla loro stessi, anzi hanno impoverito di più l'Italia, sempre di più. Vai Vito. Soia, problema poi questo fatto di immigranti, ma cosa immigrati? Ma noi in Italia ci sono stati gli immigranti, l'immigrazione negli anni 40 e 50 che sono andati in America, sì certo che sono andati in America, ma non a milioni di persone che se ne stanno trasferendo in un'altra nazione. Gli italiani poverini ci sono andati, 15 piemontesi, 20 abruzzesi, 50 siciliani, e sono andati in America. Ma come sono andati in America? Non sono andati a grattarsi i coglioni, no. In America gli italiani sono andati con un lavoro già ben predisposto, già preposto, vale a dire che uno faceva il fabbro, quell'altro faceva il cameriere, con un mestiere. Noi vediamo questi neri che sono in via Michele Coppino a 5, a 6, a 7, li vedi salire e scendere. Ma dove cazzo vanno questi? Io vorrei sapere dove vanno e che cosa fanno. Chi si deve mangiare? Chi si... Cosa fanno? Io vorrei sapere che cosa fanno. Li avrei presi tutti quanti, riuniti, e portati alla Nurra. Ci sono tanti di questi neri. Li avrei fatti lavorare lì. Sarebbe stato un giardino la Nurra. Con questi qua sono morti, non hanno un briciolo di niente. Sono anche ignoranti, sono dei pezzenti. Per carità, dai, purtroppo è così, ma comunque, mai se vecchia era mai da noi, noi parliamo perché è anche giusto parlarne, però è veramente una vergogna, perché siamo messi male a livello di nazione, qua, con tutto il debito pubblico, beh, continuiamo a indebitarci per questi bastardi che vengono da fuori. Gianni. È una delle cose che bisogna lavorarci di più in principio per prima cosa è sugli aumenti della roba alimentare, che la gente non ce la sta più facendo a fare la spesa. Io sento tanta gente che non arriva a fine mese a farsi la spesa con la pensione che c'hanno. È una cosa vergognosa che uno non abbia diritto a comprarsi da mangiare, è una cosa vergognosa. Tonino, tu sei avanti, vieni avanti, dai, mi sembra tutta... Campa di Rogera, buonasera a tutti. Sì, però avete saputo anche l'ultima che all'aeroporto di Urbia non è che atterrano soltanto i VIP, hanno atterrato anche 178 extracomunitari da Lampedusa, grazie anche al governo. Sono arrivati in aereo. Campa. Ci rivedi. Adesso non basterà più sbarcare in nave, anche in aereo adesso. Cazzarola. Perché non lo sai che è così? Ciao Tony. Purtroppo, se lo sto dicendo, qui siamo noi la pattumiera del mondo, la pattumiera d'Italia è diventata la pattumiera del mondo. Tutti vengono in Nairobi, vorrei capire per quale motivo devono venire sempre qua. Poi sono anche persone imbecilli, deficienti, perché vengono qua con i cazzi per terra, perché tu li vedi negli accampamenti, con tutti grandi bucati per terra, ragazzi, con una specie di materasso che è anche vergognoso. Ma io con i cambi per terra, in casa del bianco me ne sarei rimasto a casa mia con i cambi per terra, che sarei stato anche più tranquillo, senza stare ad andare in giro per il mondo. No, non è possibile, guarda. È una questione anche di intelligenza.